9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 3 marzo e come vi avevo anticipato, per chi non fosse in ascolto qualche minuto prima del giornale radio, lo ripeto, oggi parliamo da una vicenda concreta, un nome, un cognome, una vita. Si chiama Nicola Interlici, di professione fa il commerciante, ha dei negozi a Gela e gli chiederemo di spiegarci come equalmente sulla sua vicenda, alla quale è esposto lui con i suoi beni patrimoniali, con la sua impresa che ha messo in piedi e che ha le prese con vicende che purtroppo bisogna definire di ordinarissima cronaca del mezzogiorno di una parte d'Italia, come mai con questa sua vicenda egli abbia l'obbligo, per tutti coloro che credano che questi siano i problemi concreti, di riflettere per capire come mai in Italia di vicende come queste, di anno in anno, di decennio in decennio, continuino a costellare la vita quotidiana al punto tale che quasi nessuno più ci fa attenzione. Si fanno molti convegni, come no? Lo Stato si impegna con i prefetti, come no? Molti proclami, ma poi chi vuole tenere aperta un'impresa, un'azienda commerciale, una ditta familiare, ci mette i propri soldi e sapete, di questi tempi ce li deve mettere due volte rispetto a come vanno le cose da un anno e mezzo, il conto è sempre da fare con qualcuno che viene a chiederti delle cose che non dovrebbe chiederti e se non gliele dai, rompe, brucia, intimida. Come mai nel nostro paese le vicende come queste non ci fanno mai abbastanza dire che bisogna cambiare pagina e mandare a casa chi non è in grado di risolverle? Però iniziamo dalla sua storia, con la sua voce, e lo ringraziamo perché, come potete immaginare, esporsi non è esattamente una parte secondaria del rischio decidere di parlarne in pubblico con la propria faccia, con il proprio volto. Nicola Interlici, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci racconta la sua storia, che negozi ha a Gela, da quanto e che cosa avviene due giorni fa per l'ultima volta e poi nelle settimane e nei mesi precedenti. Io due giorni fa, niente, adesso mi trovo a Bologna, ancora non sono sceso in Sicilia perché sono qui per lavoro, per fare acquisti. Domani dovevo essere a Milano perché c'era una grossa fiera, il Micam delle scarpe, perché ho due negozi di abbigliamento e uno di calzature che ho aperto l'anno scorso. E non vado, non sto andando, oggi sto prendendo il primo aereo e sto scendendo giù per vedere, insomma, perché ancora non ho visto proprio con i miei occhi, ma già dalla cronaca che ho visto su internet e da quello che mi hanno raccontato a casa, insomma, perché la macchina ha preso fuoco davanti al portone, e il primo piano il portone è andato a fuoco, c'è una tragedia anche per la mia famiglia soprattutto, perché le famiglie non sono potute rientrare a casa sino a mezzanotte. Ma come lei diceva all'inizio, di queste cose se ne parla poco. Io è da sei mesi che non esco di casa, io chiudo i negozi alle 8:30, alle 9, vado, non faccio più una vita sociale, perché ho paura, nessuna associazione, nessuno si è avvicinato a me, tranne i miei pochi amici, tranne il capitano dei carabinieri che mi è stato vicino in questi mesi, ma anche loro hanno le mani legate, quello che possono fare fanno. Io purtroppo il mio sbaglio è stato quest'anno che, oltre alle mie attività, io e alcuni miei amici imprenditori abbiamo preso in gestione una discoteca quest'estate, e forse era qualcosa che io non dovevo toccare, infatti da lì sono iniziati i miei guai. Prima mi hanno bruciato la macchina, poi ho rotto le vetrine dei negozi, a distanza di giorni, poi a distanza di settimana mi hanno bruciato un negozio con un danno allucinante, che mi sto sbrigando io da solo, nessuno mi sta aiutando, solo io con le mie forze. Però penso di non farcela più. Ma come mai questa discoteca presa in gestione ha attirato, diciamo così, queste attenzioni improprie? È normale, perché ci sono degli altri interessi che io lì per lì non ho guardato, ci sono interessi di altre discoteche, magari gestite da mafiosi, c'è il giro della droga, ci sono tante altre cose che io non pensavo che... Pensavo di io come imprenditore, avevamo per dire 10.000 euro, 5.000 euro, li investiamo tre amici, anche se voglio dire non ci guadagnavamo, ma ci divertivamo tutta l'estate, ma invece No, non è stato così. E questa cosa ne ho subito anche con i negozi. La ritorsione è stata anche con i negozi. Comunque le devo dire che con le telecamere chi mi ha bruciato la macchina l'hanno beccato. Chi mi ha intimidito l'ha beccato, grazie anche alle mie testimonianze, perché se non c'era la testimonianza mia non si beccava nessuno. Nonostante questo, questo era un figlio di un mafioso. Sono rimasto solo. Il padre, la famiglia mafiosa mi cercava ogni giorno, stavano davanti ai miei negozi, io dicevo tutta la polizia, i carabinieri, ma tutti se ne sono fregati, strafregati. Dico, guardate, io non posso vivere così. Io non ce la faccio vedere il padre di questo che è in galera e che mi viene, anche non mi diceva nulla, però la sua presenza già mi inquietava, non potevo lavorare, cioè guardi, io è da 7 mesi che sto passando. E ora voglio scendere giù, svenderò i miei negozi perché non ce la faccio cioè, più. Cioè lei ha deciso di smettere? Sì, guarda, non ce la faccio più. Sono arrivato. Io ho già dato tanto per la mia Sicilia, per la mia città, e non. Cioè la vita non la posso dare. Io preferisco andare a lavare piatti, fare qualsiasi altro lavoro perché sono in gamba, non ho problema di lavorare. Mille aziende del nord mi conoscono, sanno quello che posso fare, quando valgo. Perché da noi, come lei diceva, è tutto normale in Sicilia, no? Quando io racconto determinate cose qui a Milano, a Bologna, io ma tu sei pazzo, come non fai a scappartene, come fai a vivere ancora lì? Dico, ma non è facile abbandonare tutto il tuo lavoro, quello che hai costruito in 20 anni. Consideri lei che 10 anni fa, 12 anni fa, io avevo un pub sul lungomare di Gela, me lo hanno distrutto. Quindi io ho già dato alla mia città, non era assicurato, non sono in tutti gli attentati che ho avuto, solo in quest'ultimo del magazzino ero assicurato, ma io ho sempre pagato io di tasca mia, tutto di tasca mia, perché l'assicurazione non ti assicurano neanche. E non assicurano perché in quel caso o non assicurano o le tariffe sono più elevate proprio in ragione del fatto che dalle vostre parti ci sono questi particolari eventi di rischiosità, col bel risultato che la maggior parte della gente dice a questo punto pago meno, pago il pizzo, ma almeno è efficace. Io voglio fare un'associazione, alcuni amici vogliamo fare un'associazione che vogliamo pagare il pizzo. Come vogliamo pagare il pizzo? Ah, nel senso che lei dice, per paradosso, sì, conviene, tanto conviene vale dirlo apertamente che conviene, perché si paga meno e a quel punto i sinistri non arrivano. Io pago 20 livello di assicurazione l'anno e quando te li danno, te ne danno sempre un terzo di quello che, come quello della macchina, no, di altre cose. Ma poi voglio dire, cioè è un'assurdità quello che sto dicendo. No, certo, è un paradosso. È un paradosso, però guardi che è la verità, conviene pagare il pizzo, almeno sei tranquillo, puoi lavorare, se c'è qualcuno che ti rompe le palle sai dove andare. Senta, adesso non si faccia prendere, anche se è facile dirlo a chi ha le case bruciate e si trova poi fuori dal negozio, diciamo così, i capi mandamento di quelli che ha mandato in carcere. Però io voglio sapere da lei, nella sua esperienza, lei dice che un pub è andato a quel paese e l'ha dovuto chiudere, poi ha aperto negozi di abbigliamento e scarpe e adesso si sta risolvendo la stessa cosa. Chi concretamente? Chi poteva darle un sostegno, una mano? Chi poteva creare una rete alla quale potevano rivolgersi? Chi come lei a Gela prova a dire cambiamo pagina, non paghiamo, prendiamo in gestione dei locali senza doverci piegare? Chi è mancato? Chi sono i colleghi, i commercianti, i carabinieri, la polizia, i magistrati? Che cos'è? Tutti quanti? Cioè ci sarà un modo un pochino per dire da fuori quando ci si espone come lei, Tizio, Caio e Sempronio, fate un passo avanti? Io penso un po' tutti quanti. Io penso che, guardi, no, la cosa peggiore che io dico è che purtroppo io vivo in Sicilia. E noi siciliani siamo quasi abituati a vedere queste cose, a subire queste cose, come se non so come dirgli. Io in questo momento sono molto, molto confuso, sono la testa in questi 2 giorni, perché poi non sono neanche a Gela, mi sta scoppiando, ma anche perché cercare di pensare che mi sta succedendo, chi è che ce l'ha con me, perché io penso che mi vogliono mandare dalla città. Mi vogliono mandare dal paese, però un po' tutti, le forze dell'ordine anche, lavorano molto, molto, molto alla leggera, molto, perché questi sono episodi che da noi succedono, quindi cioè, è normale, non si prende la cosa sul serio come dovrebbe. Poi un'altra cosa, sono solo, non sono appoggiato politicamente da nessuna parte, non sono appoggiato a nessuna associazione anti-racket, quindi solo chi è nelle associazioni, solo chi allora ha un po' di voce in capitolo. Ho cercato di parlare al viceprefetto, al prefetto, per tutti quelli che mi sono capitati quest'estate, per il momento che di paura che io non posso andare in una discoteca, non posso andare, e dovrei fare vita sociale, perché avendo tre negozi io dovrei promuovere, insomma, ecco. Sì, sì, questo è il mio lavoro, soprattutto farmi vedere, cosa anche nel lavoro sto, cioè prima che fallisco in un determinato modo che mi fanno fallire loro, chiudo, niente, veramente io sto scendendo giù, la prima cosa che faccio è svendere i negozi, andarmene, ho dei negozi bellissimi che lavorano tanto. Vabbè, adesso vediamo, prima di procedere a questa svendita, vediamo, io la prego di rimanere collegato con noi. Ai nostri ascoltatori dico che alcuni, ho il dovere di dirglielo, Nicola, non sono molto convinti, cioè dicono: ma siamo sicuri di questa cosa? Non lo so, noi abbiamo fatto le nostre ricerche prima di invitare Nicola, ricerche di stampa, abbiamo parlato a Gela e tutti ci rassicurano sul fatto che la testimonianza di Nicola corrisponde in pieno a quello che vi ha detto, anzi, insomma, che gli episodi sono più numerosi, più lunghi nel tempo, quindi posso rassicurare che non facciamo dirette con dei finti ospiti, per così dire. Tutto quello che vi è stato detto è solo in parte, la realtà supera quello che abbiamo detto. Poi altri ascoltatori chiedono: ma insomma, non è che questi commercianti voi li dipingete un po' troppo come eroi? No, ma certo, non è che sto dicendo che il commerciante medio in Italia è un eroe sulla trincea che rischia la vita per tenere aperta la propria impresa, però vi sono delle parti d'Italia in cui parti molto più estese di quanto siamo disposti a credere, in cui nel mezzogiorno c'è anche questo rischio nella propria attività, e c'è un rischio che altrimenti si declina piegandosi, cioè pagando, perché come ha detto Nicola Interlicci, conviene dal punto di vista dei rischi che si mettono in conto, dell'efficacia della rete di protezione che impedisce a quel punto sinistri, incendi, e molti commercianti giù da molti anni dicono: è più conveniente pagare, e questo significa la sconfitta dello Stato e di tutti, delle regole, perché ovviamente vuol dire che l'ordinamento capace di fare rispettare davvero le proprie regole, non quelle del codice civile e del codice penale, è un ordinamento parallelo a quello dello Stato. Conosciamo il problema, però, perché siamo alle prese da decenni con questa faccenda. E allora, una delle associazioni, naturalmente, di rappresentanza immediatamente chiamata in causa dalla vicenda come quella di Nicola Interlicci, e a mio giudizio chiamata in causa più da vittima a propria volta che da protagonista di un mancato riscatto, è naturalmente, visto che stiamo parlando di commercianti, la Confcommercio. Abbiamo collegato con noi Luca Squeri, che è il presidente della Commissione Sicurezza e Legalità Nazionale di Confcommercio. Lo ringrazio di questo. Grazie, Squeri. Buongiorno a voi. Allora, Squeri ha presentato alla Camera proprio da pochi giorni, in una audizione, un rapporto, un vero e proprio rapporto, in cui tra l'altro viene anche commisurato e computato il costo della criminalità sul valore aggiunto dal terziario nel Sud Italia, e la cifra è abbastanza impressionante, perché qui si parla di del 7,8%, cioè quasi l'8% del valore aggiunto in tutto il terziario nel commercio del Sud se ne va esattamente in criminalità, e quindi stiamo parlando di una cifra intorno ai 3,5 miliardi di euro. Ecco, al di là di questa cifra, Squeri, ha sentito il caso Interlicci, ma lei ne conosce tantissimi ovviamente. La vostra associazione che cosa può fare, ha fatto e sta facendo per far sentire meno solo chi è esposto al pizzo e alle intimidazioni? Ma guardi, non facciamo mai abbastanza. Intanto al collega va tutta la mia solidarietà, e non solo, perché a Gela la Confcommercio è attiva su questo grave problema. Abbiamo fatto a fine gennaio, il 29 gennaio, insieme all'associazione anti-racket Gaetano Giordano, un'iniziativa per cui il presidente Confcommercio Rocco Pardo di Gela era lì al fianco di questa associazione per testimoniare proprio la presenza della nostra categoria contro questo racket, che è una piaga, un cancro. Proprio a dicembre siamo andati come Confcommercio a un'iniziativa a Gela su questo tema, però non facciamo mai abbastanza. Avete sentito il collega parla di è più conveniente pagare il pizzo, lo dice come provocazione. Lo diceva per disperata, paradosso ovviamente. Sì, appunto come provocazione, però è proprio qui il punto, cioè noi stiamo da anni portando avanti un messaggio in tutte le città, e chiaramente nel meridione questo fenomeno è assolutamente più grave, dove diciamo che non pagare il pizzo e non solo denunciare, non solo è un obbligo morale e etico, ma conviene. Perché comunque se si cede, ecco che poi il finale l'abbiamo visto, costretti a chiudere l'attività, addirittura magari a cambiare città. Per cui il messaggio che noi da tempo, con risultati concreti, per cui al di là delle parole seguono i fatti, è quello di fare massa comune, far sì che noi come categoria, insieme alle associazioni, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla magistratura, insieme ai cittadini, cioè lo Stato, in una parola sola, si faccia massa comune per contrastare questa criminalità. Senta, dottor Squeri, io volevo anche mettere a confronto con Antonio Montante, che nel comitato di presidenza nazionale di Confindustria ha la delega per la legalità, perché proprio due fine settimane fa a Bari c'è stato il convegno nazionale del comitato Mezzogiorno di Confindustria, e sotto la presenza di Emma Marcegaglia è stata data una forte enfasi a questa della legalità in tutto il Mezzogiorno, proprio in Sicilia con Ivan Lobello, come in Campania le associazioni territoriali di Confindustria sono dato un nuovo codice etico, e insomma sono arrivati al punto di dire: o si denuncia il pizzo, le intimidazioni, e non si fa parte dei cartelli delle aste pubbliche per le opere pubbliche inficiate dalla criminalità, oppure noi vi sbattiamo fuori, chi si piega sbattiamo fuori anche le associazioni iscritte a Confindustria se fanno parte di questo sistema, che è una svolta insomma di una certa durezza. Farlo davvero poi è molto complicato, però insomma nell'imprenditoria del Mezzogiorno, quindi Confcommercio, con come sta parlando lei, Confindustria eccetera eccetera, c'è la voglia di non chiedere solo allo Stato ma di dare gli esempi in prima fila. Concretamente poi, svolte di questo tipo, siccome poi concretamente appunto il commerciante, l'imprenditore che dice: ma se è più efficace non mettersi in prima fila a esporsi, perché dobbiamo sostituirci allo Stato? Quanto è difficile poi farlo davvero? Guardi, tra l'altro io su questo tema sono assolutamente concorde, tant'è che noi come Confcommercio, non solo nel nostro codice etico nazionale ma a livello di presenze territoriali, portiamo avanti iniziative del genere. È dal 2004 che a Palermo chi non collabora con le forze dell'ordine viene sospeso, e se poi si arrivasse a una sentenza definitiva di connivenza proprio c'è anche l'espulsione. Per cui è chiaramente un terreno molto delicato, perché abbiamo visto qual è il clima di terrore in cui si agisce questo fenomeno, però è indubbio che bisogna dare segnali di totale collaborazione con le forze dell'ordine, se no non se ne esce. È chiaro, ripeto, che non è mai abbastanza, e l'importante è non lasciare solo l'imprenditore, il commerciante, perché dirlo è facile, però poi i fatti sono assolutamente più importanti, e bisogna stare vicino a tutti i livelli a queste vittime del racket. Ora, dopo la pubblicità, una voce impegnata in prima fila della magistratura, della Direzione Nazionale Antimafia, per vedere che cosa lo Stato davvero ha fatto, può fare, può fare meglio e di più, perché i tanti come Nicola Interlici che irritano quelli del nord, che dicono: noi non abbiamo niente a che fare. Errore, finché siamo uniti i tanti Nicola Interlici che chiudono significano meno valore e meno possibilità di vendere ed espanderci anche per chi sta nel nord e magari il racket non ce l'ha o ce l'ha meno pesante. E questa la cosa per cui bisogna avere la passione di occuparsene, e questa è la cosa per cui vale sempre la pena prendere a calci nel sedere un politico che ci viene a parlare di chiacchiere e vuole solo i soldi delle tasse, e in cambio però lo Stato efficiente non ce lo dà. Eccoci tornati in studio, cari ascoltatori. Abbiamo cominciato questa trasmissione con la testimonianza diretta di Nicola Interlici, commerciante a Gela, che ci ha raccontato come dopo l'ennesimo atto di intimidazione, macchina bruciata sotto casa sua, fiamme fino al primo piano, dopo X episodi di questo genere ai danni dei suoi beni patrimoniali e dei suoi negozi, stia seriamente pensando di tornare a Gela, svendere, chiudere, dopo che una analoga, sia pur più piccola, inizia attività commerciale alcuni anni fa, l'aveva dovuta chiudere. Poi l'errore di prendere in gestione la discoteca con alcuni soci senza tenere nella debita considerazione gli interessi impropri del mandamento mafioso locale. Ecco, una ordinaria storia di fallimento d'impresa dovuta a stato di cose antistato di cose. Allora, chiediamo a un magistrato impegnato alla Direzione Nazionale Antimafia, con i mezzi e le possibilità che lo Stato mette a loro disposizione, un punto partendo da questa vicenda concreta a Gela, su cosa concretamente si fa per questo, si potrebbe fare di più nella sua esperienza. Il dottor Alberto Cisterna, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, che può stare con noi solo 10 minuti perché ha molto da fare, ma noi di questo molto lo ringraziamo. Grazie, dottor Cisterna. No, grazie a lei, purtroppo il molto da fare è dovuto a impegni d'ufficio. Ma lo so bene, lo so bene. Senta, noi siamo partiti dalla testimonianza accurata, ovviamente, di Nicola Interdici. Nella sua opinione, lui lamentava, lo deve capire, lo sa, che chi ci finisce di mezzo, dice qui lo Stato, il viceprefetto, eccetera, eccetera. Solo chi fa parte, diceva, di associazioni anti-racket in qualche misura è, per così dire, attenzionato, uso apposta il gergo da Verina di Polizia, come a dire che anche nell'esporre la propria faccia, nelle associazioni presenti sui territori, c'è una specie di graduazione politica o pubblica di chi merita più attenzione da parte di chi rappresenta lo Stato rispetto a chi invece non lo fa, è un commerciante qualunque. Metto insieme tutte queste cose, ma nella sua esperienza cosa si fa e cosa si potrebbe fare di più? Beh, guardi, sicuramente bisogna tener conto di un dato, che per anni ed anni le collaborazioni da parte delle vittime sono state pochissime e purtroppo lo strumento che si aveva a disposizione, che era quello di incriminare i reticenti, per così dire, era uno strumento del tutto inidoneo e inefficiente, lo sappiamo bene. E siamo ancora al silenzio di massa omertoso oppure no? Beh, guardi, in alcune zone siamo al completo silenzio, nel senso che la gente in molte zone non collabora, tace, soprattutto dove la densità mafiosa è molto alta, naturalmente i commercianti in primo luogo tendono a tacere. E questo è un problema che soltanto le associazioni di volontariato qui e lì hanno a macchia di leopardo, insomma, in qualche modo contrastato e alleviato. Quindi, venendo alla cosa che lei diceva, è anche normale che lo Stato abbia un occhio di riguardo verso queste associazioni, ma pensi a tutta la politica degli anni 90 in cui si è cercato di favorire l'associazionismo anti-racket e si è dato soprattutto a costoro protezione e sostegno. Dottor Cisterna, lei non fa il legislatore ma il magistrato, però sì, sa di legge, le chiedo un'opinione da giurisperito, per così dire. Se il commerciante, noi gli chiediamo di parlare come è giusto e ci risponde, come ce l'ha detto Interdici, molti dei miei colleghi dicono, io pago di meno rispetto all'assicurazione altissima nella mia provincia per via della mafia, pago di meno il pizzo ed è più efficace, non gli dobbiamo dare anche, offrire in cambio per il suo coraggioso espletamento dei doveri come cittadino, ma in cambio metterlo un po' più al sicuro e più coperto sul suo rischio d'impresa, cioè dicendo, se tu collabori esiste una specie di polizza pubblica per il quale la tua impresa è assicurata a costi un pochino inferiori e più efficaci. Non so se do l'idea. Ma è chiaro, voglio dire, ma gli strumenti di sostegno da questo punto di vista ci sono e sono naturalmente gestiti da un commissariato ad hoc, un commissariato anti-racket e anti-usura, cioè c'è un organismo nello Stato che si occupa direttamente del sostegno alle vittime, del sostegno naturalmente ai ceti imprenditoriali che sono associati o singolarmente intervengono su questa materia. Però volevo ricordarle una cosa, che in realtà rischia sempre non chi parla e chi denuncia, ma piuttosto chi paga o viene meno all'obbligo di pagare e si sottrae ai suoi adempimenti verso le cosche, nel senso che è molto difficile che l'imprenditore che collabori subisca ritorsioni, perché lo Stato lì è presente e le cosche sanno bene che la risposta sarebbe durissima. La macchina incendiata, il danneggiamento lo patisce chi è in difficoltà e non paga, non chi ha testimoniato. Questo vorrei dire, per fortuna i tempi di Libero Grassi sono passati, cioè sono passati tanti anni e da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, anche la reazione dello Stato è migliorata e questo dovrebbe tranquillizzare chi intende collaborare. Chi intende pagare o non pagare si trova poi esposto, purtroppo. Quindi lei dice il fenomeno inerziale di una collaborazione che resta ancora troppo bassa si deve al fatto che la stragrande maggioranza, avendo pagato prima, sa bene che poi tentare di sottrarsi una volta che si è iniziato a pagare espone a rischi maggiori, questo è il punto. Ma guardi, lo sarò ancora più chiaro, rischia chi gestisce in proprio questo rapporto con le cosche pensando di poter mediare, di poter ammiccare con gli uomini d'onore, di poter sostituire una mazzetta con un favore, un piccolo riciclaggio invece del pagamento mensile. Non rischia chi collabora, perché io sfido, al di là talvolta di cose di dichiarazioni qui e lì che si sentono fare, ma sfido chiunque a dimostrare che chi ha collaborato con la giustizia, gli imprenditori che abbiano collaborato con la giustizia si sono trovati esposti a ritorsioni. È molto raro, è successo processo tanti anni or sono, ma la storia della mafia non è una storia immobile, le cose cambiano, tante cose sono mutate e ripeto, un altro caso Libero Grassi per fortuna in questo paese non ci sarà mai. Però il caso, di Interlici dimostra, cioè la ripetitività degli episodi a distanza di mesi, che poiché lo Stato, come è più che ovvio, non è che può mettere un posto di tutela fisso di carabinieri, finanzieri o poliziotti per ogni ufficio, casa privata eccetera, di chi denuncia eccetera, perché significherebbero centinaia di migliaia di uomini pubblici armati che fanno i posti fissi di sorveglianza in giro per tre quarti della Sicilia, come si fa a impedire che poi ti brucino la macchina e ti brucino la casa? Dottore, innanzitutto lo si fa con quelle politiche di sostegno di cui dicevamo alle vittime, cioè innanzitutto assicurando alle vittime la possibilità di essere ristorati del danno sofferto e di naturalmente ricevere le forme di indennizzo che la legge prevede e che già prevede. Secondariamente mostrando a queste persone solidarietà, nel senso che quando alla Lamezia Terme è stata data alle fiamme un'intera fabbrica di pneumatici, lo Stato si è fatto carico di far sì che una commessa a questa ditta arrivasse direttamente dalle Ferrovie Calabro-Lucane. Lo dico perché è stato un gesto simbolico importante, cioè l'impresa è stata messa in condizione di ripartire. Si parla tanto di white list, di pulizia degli appalti dalle infiltrazioni mafiose, ma la prima white list sarebbe quella delle vittime della mafia. Questo paese ancora non lo fa, cioè in questo paese non è un titolo di privilegio in una gara pubblica essere stato uno che ha denunciato. Noi ragioniamo sempre al contrario, escludiamo chi non denuncia. No, premiamo chi denuncia, non escludiamo chi non denuncia. Dottor Cisterna, lei mette il dito nella piaga, perché la realtà è che la mia opinione è che la politica al sud, e non solo al sud, ci sono in troppi interessi anche al nord, perché è ovvio che le aree immobiliari da espropriare per fare gli Expo 2015 sono di qualcuno ed è ovvio che la politica ci vada leggero. Però la realtà, secondo me anche le indagini di questi mesi che esplodono sui giornali, dimostrano che la rappresentanza politica nel sud, poi con queste leggi elettorali, è ancora, diciamo così, un po' sensibile, vicina a certi interessi, piuttosto che impegnata nel combattimento a viso aperto. Lo dico escludendo le generalizzazioni, non voglio includere in questo giudizio tutta la politica, dico solo che perché ci sia un legislatore che fa una scelta per la quale le imprese che non hanno niente a che vedere e che rischiano vengono a quel punto premiate nelle procedure GAST pubblica o per importi inferiori, vengono premiati nelle trattative individuali con cui si assegnano gare e commesse, ci vuole un politico che a quel punto sia in prima fila anch'esso e si esponga contro questi interessi. Comunque noi ringraziamo il dottor Cisterna per il tempo che ci ha dato, chiederemo poi al dottor Squeri e a Nicola Interlici nella parte finale della trasmissione cosa pensano di questa testimonianza pubblica che viene dai magistrati rispetto ai mezzi concreti che poi sono in atto sul territorio. Intanto anche alcune voci di voi ascoltatori. Cominciamo con Marco da Palermo. Prego Marco. Giannino, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Dica. Allora, le volevo dire che a me, con tutto il rispetto per il suo ospite che ha parlato adesso, il magistrato, sì, dico, a me sembra purtroppo che chi sa dalla parte, insomma, dello Stato, chi rappresenta lo Stato, sia un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è chiaro che bisogna mandare un messaggio positivo, attenzione, questo è apprezzabilissimo, però la realtà dei fatti purtroppo è molto molto diversa, le spiego. Io chiamo da Palermo e personalmente ho vissuto la seguente vicenda. Dopo 5 anni nel tentativo di aprire una piccola attività commerciale ho dovuto chiudere. Tutto questo per quale motivo? Perché da un lato chiaramente dopo qualche tempo si è presentato il nostro malcostume classico, per cui si è presentato il mafioso di turno che ha cominciato a chiedere il pizzo. Io e il mio socio, eravamo in due, abbiamo resistito fino all'ultimo. Dall'altra parte purtroppo lo stesso Stato, che dovrebbe non solo tutelarci ma in più anche fare il suo lavoro, cioè concederci tutte le varie autorizzazioni, tutto quello che serve burocraticamente parlando per aprire l'attività, per 5 anni di fila ci ha tenuto con delle scuse allucinanti in balia del fatto di senza nessun tipo di autorizzazione. E quindi lei dice: io non avevo l'autorizzazione da parte dello Stato, lo Stato non mi tutelava, in quei 5 anni non potevo operare, ma intanto c'era già chi mi chiedeva il pizzo. Un quadro Attenzione, stiamo parlando del fatto che lo stesso Stato non mi mette in condizioni di lavorare in maniera corretta, in maniera legale. Grazie Marco, le dirò che io ho degli sms qui che vengono dal nord e che dicono: a proposito di Stato inefficiente, noi qua avremo meno pizzo, ma qui sugli studi di settore, nei commercianti, è una specie di pizzo improprio chiesto dallo Stato, perché o paghi o in contenzioso paghi 5 volte. Se vuoi andare avanti in anni in cui sei sotto con le entrate come queste di crisi, non è molto diverso l'effetto da quello del pizzo della mafia. So che fa sobbalzare molti di coloro in ascolto che vi siano commercianti che usano questi accostamenti impropri, però è bene, per chi sa fare i conti su che cosa significa aprire un'impresa privata, che ci si abitui a considerare le improprie richieste di esazione come delle improprie richieste di esazione. Le faccia l'Agenzia delle Entrate o le faccia qualcuno che invece non è lo Stato ma è l'antistato con una pistola in mano. Non metto tutti sullo stesso piano, ma attenti, gli effetti talvolta possono essere esattamente uguali. Eccoci tornati in studio, siamo partiti dalla testimonianza di Nicola Nichi Interlicci, che è commerciante a Gela, che dopo l'ennesima intimidazione vuole chiudere oggi le sue attività. Abbiamo sentito Luca Squeri, sono ancora collegati con noi, tra poco Luca Squeri ha la delega nazionale per la sicurezza e la legalità in Confcommercio. Abbiamo sentito Alberto Cisterna, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Ancora un paio di telefonate agli ascoltatori, poi torniamo a chiudere con i nostri due ospiti. Cominciamo da Giovanni, che chiama da Taranto. Prego Giovanni. Buongiorno, solidarietà al signor Nicola, quindi questo è importante perché è un dramma che per chi vive di attività commerciale o di un proprio lavoro è una cosa davvero insopportabile e grave. Io volevo segnalare che qui su Taranto e su provincia e nella provincia di Taranto si contano a decine i danneggiamenti, le bombe. Non più tardi di 4 giorni fa è saltato in aria un noto pub della provincia, quindi mi sembra che sia un fenomeno davvero esteso, perché sono davvero continui attentati, bombe, danneggiamenti a attività commerciali, anche ad attività come concessionari di auto, eccetera eccetera. Quindi il fenomeno a mio avviso è davvero esteso, e in Sicilia magari uno se la prende con la mafia, ma qui con chi ce la dobbiamo prendere? Grazie a Giovanni da Taranto. Andrea dalla provincia di Prato, prego, ci dica Andrea. Sì, buongiorno dottore, volevo la sua opinione sul fatto, se venisse a mancare improvvisamente al paese Italia il fatturato della mafia, stimato mi sembra in 140 milioni di euro. Miliardi di euro. Che cosa succederebbe a livello sociale? Questi soldi in qualche maniera vengano riciclati poi in attività appunto lecite, che danno come dire, lo stipendio alla commessa del negozio, che danno assistenza anche a, come dire, alle famiglie e via dicendo. È chiaro che è provocatorio il discorso, però ecco, mi piacerebbe sapere la sua opinione, perché se così fosse in qualche maniera si potrebbe anche ipotizzare che lo Stato tolleri, tra virgolette, questo genere di attività. Grazie. Guardi, il tema che lei solleva, in realtà, Andrea, questo è un tema sul quale la ricerca economica sta negli ultimi decenni si interroga profondamente, perché è un tema che riguarda drammaticamente molto più i paesi in via di sviluppo che quelli avanzati, perché sono esattamente quelli i paesi nei quali i fenomeni dell'economia in nero, tra cui quelli delle grandi racket, dei grandi racket criminali e illegali, fioriscono, sono quelli in cui una vastissima fascia delle attività economiche ricade in quel genere di attività. E la domanda dell'economia, dell'economista a quel punto diventa: qual è la soglia oltre il quale i fattori non direttamente economici, ma quelli della tradizione culturale, dei valori di rispetto autonomo delle norme e dei regolamenti, tra cui le leggi fiscali e così via, fanno scattare la soglia per la quale diventa conveniente esercire attività economiche solo legalmente? Perché se non si supera quella soglia, cioè la soglia della convenienza spontanea a farlo, ci sono molti casi, tra cui di scuola quello italiano, nella quale si può diventare uno dei 7 paesi nella graduatoria del PIL mondiale e contemporaneamente avere una fascia molto estesa di propria economia. L'Istat dice 17%, in realtà ci dice il 22-25% almeno, che è illegale, è criminale, è in nero. Ecco, l'Italia rappresenta una domanda, quella che ha fatto lei, che non ha ancora una risposta, perché qui il meccanismo di convenienza spontanea non scatta, e non scatta perché le storie come quella di Nicola ci dicono come fa a scattare se continua a essere conveniente pagare il pizzo. Ci dice il magistrato: chi ha iniziato a pagarlo, l'ha pagato negli anni, rischia di più una volta che si tira indietro. Lei capisce che questo è un meccanismo di non convenienza spontanea. Allora il problema è che, siccome noi la risposta economica non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, perché le potrei citare rapporti di economisti dello sviluppo istituzionalisti che seguono Douglas North, che dicono che è un problema oramai da noi più culturale che di fattori economici e di rilevanza di accumulazione primaria. Io penso che esista ancora un problema di infrastrutture e di accumulazione primaria irrisolto nel Mezzogiorno, come testimoniano tutti i dati del gap del Sud, ma che certo da noi c'è un problema particolare, e questo problema particolare, però, la mia opinione, la mia risposta personale, che sta nell'inefficienza dello Stato. Io sono un antistatalista, quel po' di Stato che voglio, voglio che funzioni. Nel Sud ce n'è troppo e non funziona troppo, proprio perché ce n'è troppo, perché al Sud la politica è intermediazione di voti, assistenzialismo del consenso, e su questo ritorno indietro di impropri, appalti, gare, cose eccetera, lo sappiamo tutti. Questa è la realtà del Sud. Temo che la realtà del cittadino del Sud parta da una reazione per cui bisogna prendere a calci nel sedere quei politici di tutti i partiti del Sud che hanno sempre fatto così, altrimenti io temo che un giorno il resto d'Italia dirà a quell'altra parte d'Italia arrivederci, e chissà che non sia anche, perdonatemi, un po' giusto, sono un po' provocatore oggi. Gianni da Milano, che ci dice Gianni? Sì, buongiorno Oscar. Senta, la mia opinione è perfettamente coincidente con la sua, se ho ben capito. Io sono un commerciante ormai da 30 anni, lavoro nel nord, nella zona di Milano, ho diversi negozi, ho diversi colleghi del sud con i quali mi incontro periodicamente e con i quali anche confidenzialmente scambio pareri. E che dicono? Come dicono che non fanno nient'altro che confermare quella che è la mia opinione. Fermo restando così la mia solidarietà nei confronti del mio collega, c'è proprio un atteggiamento radicato al sud da parte dei professionisti, del commercio, eccetera, eccetera, di accettare certe situazioni, capisce? Io credo che il pizzo è solo uno dei sintomi, dei fenomeni che derivano dalla criminalità, e che non potrà mai essere risolto sino a quando i miei colleghi, per esempio, inizieranno a pagare le tasse che si pagano obbligatoriamente al nord, ma di loro iniziativa. Lo so Gianni, però il problema è che prima dello Stato c'è l'antistato, che ha una minaccia più efficiente. Comunque questo è il punto di vista, secondo me, largamente maggioritario nel nord, su fenomeni come quelli di Nicola Interlici. Domanda finale a Squeri: quando si ha una delega come la sua, si rappresentano commercianti del nord come del sud, e il magistrato dice ci sono già gli strumenti, lei come risponde? Ci sono già davvero? Bastano gli strumenti che ci sono? Ma ci sono, vanno utilizzati in maniera consapevole. Io ci tengo a sottolineare un concetto che ha confermato anche il magistrato, il concetto di convenienza. Chi non denuncia è a maggior rischio rispetto a chi denuncia. Libero Grassi noi lo stiamo supportando come immagine, come grande persona che ha dato una svolta a questo problema con iniziative, c'è l'associazione Libero Grassi, siamo entrati nelle scuole con un messaggio: Libero Grassi non è un eroe, è una persona normale. Il secondo elemento, Nicola Interlici parlava della solitudine, io sono solo, ecco, io invito tutti a fare un passo avanti, le associazioni chiaramente con i mezzi che hanno, e non sono certo mezzi fantastici, però hanno la piena volontà di stare insieme a queste vittime, e insieme, solamente insieme, si può fare qualcosa di concreto. Grazie anche a Luca Squori. Nicola Interlici, da lei siamo partiti, dolorosamente a lei torniamo. Allora, davvero vuole abbassare la serranda? Lo so, abbiamo fatto chiacchiere, non è con le chiacchiere che c'è la differenza rispetto a chi rischia come lei, però non c'è alternativa davvero a chiudere e andarsene? No, guardi, sono contento stamattina perché per la prima volta dopo le chiacchiere che si sentono in TV da tutte le parti, si parla veramente dei problemi seri, di problemi veri, quelli che noi abbiamo veramente, non di quelli che parlano in TV di mafia, di anti-racket, di tutte queste cose che poi... Io devo dire solo una cosa al magistrato che diceva che le istituzioni ci aiutano, come esempio il commissariato, questo che c'è in prefettura per vittime dell'usura, del racket. Guardi, non ci aiutano per nulla, perché tutte queste indignazioni che io ho avuto in questi mesi non è niente. Per loro non è niente, perché per loro è delinquenza, per loro non è mafia. tutto quello che, che capita a me come capita ad altri, se non c'è, se non si trova proprio l'autore materiale, se non si trova proprio gli arresta, non basta fare scattare questi strumenti. No assolutamente, dice, ma vabbè, guardi, può essere che è un caso, certo. Gli hanno bruciato la macchina, gli hanno bruciato il negozio, guarda Nicola, io personalmente le posso dire, chiami me, non serve a niente, però noi siccome l'abbiamo scelta come nostro testimone, il mio personale auspicio è che come testimone lei abbia oggi un audience maggiore di prima e che possa impedire alla sua impresa di chiudere e a tante altre come la sua. È così che bisogna ragionare. Io sono un antistatalista, voglio uno Stato magro che funzioni e voglio che la gente che rischia con la faccia abbia più fegato degli altri nel dire: la faccia mia, se me la tagliano la mia, ma per questo ogni goccio di sangue sarà quella degli altri che esce e non solo il mio. È una mentalità un po' eroica? Sì, sono fatto così. Per questo mi cacciano, del resto. Senta, Interlici, ci sentiamo presto, forza e coraggio. Grazie oggi in regia Filippo Oreggi e Alessandro Marco Tulli, in redazione la linea del Giornale Radio, appuntamento a domani.